Va ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo alle amarezze, che bellezza quando rimi e vai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi si scatena un'emozione, e ben trovati, buon lunedì a tutti, un ben trovati a Caffè Paglia, il programma sportivo di Radio Città Fucico del lunedì mattina. Un saluto a Mingo in questo momento da solo nello studio, proprio, cioè, la situazione è deflagrata, diciamo così. Il regista ha la tipica febbre da derby, la tipica febbre che ti viene quando vai a vedere il derby della tua squadra del cuore, qualunque essa sia, e lo perdi in malo modo, e quindi poi ti viene la febbre, giustamente non riesci a venire in trasmissione. Per fortuna questa è una trasmissione, oggi è una giornata bellissima, c'è il sole alle mie spalle, insomma è una trasmissione felice, perché si occupa soprattutto di rugby e di San Benedettese, no? Questi sono i due temi della nostra trasmissione, e quindi voi che ci ascoltate lo sapete, noi ci occupiamo sempre di rugby e San Benedettese, e questa settimana, questo fine settimana è stato un fine settimana meraviglioso. Tra poco dovrebbe arrivare qualcuno a condurre questa trasmissione insieme a me, e quindi posso ricordare intanto il numero di messaggi SMS e WhatsApp per comunicare con noi, che è il 333 180 94 94, e ovviamente essendo un programma che si occupa di rugby e di San Benedettese, noi siamo assolutamente felici, e quindi insomma ne parleremo di questo evento storico, diciamo così, che è successo, e quindi insomma non possiamo che essere felici, no? 333 180 94 94, se seguite il rugby e la San Benedettese potete mandare messaggi. Intanto ci ascoltiamo una gran bella canzone, anzi una gran bella canzone, e poi dopo cominciamo la puntata, sperando che arrivino anche gli altri due, che stanno festeggiando ovviamente il rugby e la San Benedettese. E quindi così, per una trasmissione che si occupa di rugby e San Benedettese, questa prima vittoria storica della San Benedettese sul Guidonia, dobbiamo festeggiarla, no Simone? È la prima vittoria, eh? Ragazzi, respiriamo. Cioè, respiriamo. Il Guidonia aveva vinto l'andata a San Benedetto, ed era la prima volta che giocavano le due formazioni contro. Esatto. Quindi in questo caso la vittoria della San Benedettese contro Guidonia è la prima vittoria della storia. Va negli annali di storia. Adesso a parte scherzi, si respira, ragazzi. Si respira un pochino. Non troppo. Ne parliamo bene dopo. Ciao Simone. Bene. Ovviamente a questo punto la vittoria storica sull'Inghilterra del rugby tocca a questo pilone mancato, che è anche la stella della nostra trasmissione. Buongiorno. Un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori. Un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Caffè Paglia è il programma che parla prevalentemente di rugby, ma riceve un sacco di messaggi quando il Bologna gioca male. Gioca male, sì, non capisco perché, però misteriosamente. Ma noi ci occupiamo quindi di rugby e la grande vittoria sull'Inghilterra, prima vittoria. Adesso rimane una grande squadra, anzi una squadra che l'Italia non ha mai battuto nel rugby, una sola. Lo sapete, quella. Esatto, manca la vittoria con gli All Blacks. È tanta quella lì, quella è tanta. Vediamo. Insomma, quello è quello che capita. Allora, diciamo, salutiamo ovviamente gli ascoltatori e i due conduttori, e ci buttiamo dentro a questa bellissima puntata a tema rugby e San Benedettese. Purtroppo c'è di mezzo la partita del Bologna, che così ci ha un po' rovinato, anzi solo due. Una vittoria e una sconfitta, è come il mitico bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto. Due partite contro le due ultime della classe, è vero, è con lunedì. Sì, lunedì un posticipo di lusso, calcio italiano, un grande prodotto da esportazione, perché non mandare le troupe di tutte le principali TV internazionali all'Arena Garibaldi a Pisa? Ah, a sì, vedere... tra l'altro in un momento storico tranquillo, insomma, tu puoi occupare il palinsesto, non c'è, nulla, non c'è nulla di più importante. Al Jazeera esatto, l'ha mandata esatto, in chiaro, in diretta, per esempio, per pacificare gli animi. E per un po', diciamo, la pacificazione è stato tema esatto, anche un po' della partita, diciamo così. Per 88-89 minuti, finché Jens Odgaard non lancia un elettrodomestico esausto nella porta dei nerazzurri di casa. Dopo essere caduto, la cosa che mi colpisce di più di quel gol di Odgaard è che cade per terra, praticamente da solo, si gira quasi per protestare, convinto ci fosse qualcuno vicino a lui che l'avesse fatto cadere, e si accorge di essere da solo, gli arriva la palla nel momento in cui si è appena alzato, la chiede anche, la chiede, si alza, dice sono da solo, dov'è la volta? La puoi dare a questo punto, come se nulla fosse, e poi la tira fortissimo da fermo, è veramente un bellissimo gol. Si riprova con l'Odgaard anche nella partita col Verona, non è venuta allo stesso modo, in effetti serviva, erano già 4-5 le vittorie consecutive del Bologna, veniva da una buona striscia, che sicuramente, se non dal punto di vista del gioco, ma dal punto di vista dei risultati e di un certo tipo di compattezza, dava segnali positivi, insomma, questo noi venivamo e c'era questo Bologna-Verona, classico appuntamento in cui il Bologna doveva fare solo una cosa, cioè riuscire a vincere in maniera comoda, magari, per potersi poi concentrare di più sulla sfida di Europa League di giovedì. E invece tutto invece... l'opposto, gioca malissimo il Verona, già nel primo tempo sbaglia 2 o 3 gol clamorosi, cioè ha 2 o 3 azioni, il Verona penso uno dei peggiori attacchi della Serie A, ultima, ora penultima grazie a questi 3 punti, però se la, insomma, con poche anche possibilità di salvezza, anche se insomma, ci sono alcune squadre che non fanno più punti e quindi sono messe male, ma le altre, Lecce, Fiorentina pochi, però continuano a fare punti, quindi per il Verona sarebbe una grande impresa salvarsi. Resta il fatto che il Bologna appunto già nel primo tempo traballa tanto, fornendo opportunità al Verona. Nel momento del gol, se l'inizio del secondo tempo, diciamo, prende un po' il piglio del gioco, arriva il gol e dici da lì, adesso è finita, la chiudi e la mandi in la metti in ghiaccio, te la porti a casa così? No, perché c'è tempo per il gol alla Ordoñez di Frese, cioè la palla che esce dall'area dopo una respinta così come viene e un incursore dal reparto difensivo che è da solo libero di tirare e tira, devo dire, molto bene. Quello è un bel gol del difensore scaligero. E poi una rubrica che avevamo un attimo trascurato per qualche partita, ma in questo inverno 25-26 era un po' all'ordine del giorno, il Bologna che si fa gol da solo. Sì. E il secondo gol del Verona è un tipico caso di Bologna che si fa gol da solo. Quello che preoccupa di più, però, ne parlavamo in riunione di redazione sulla strada che ci portava. A proposito, raga, state a casa se dovete scassare i maroni. Non è possibile. Ho capito. Dai, abbiamo poco tempo. Andiamo avanti. Preoccupa perché per la seconda volta in stagione, nel momento clou, diciamo così, della stagione stessa, 2 o 3 mesi fa, il Bologna è come se si fosse schiantato su un muro quando stava andando a tutta forza verso i piani altissimi della classifica. E avete totalmente fallito quel momento lì, cioè quello dello step. Passano 2 o 3 mesi, andate in crisi nera, vi rifate, perché 5 vittorie consecutive sono una bella striscia, cioè sono un'onda da cavalcare, no? Cioè non capita spesso durante l'arco di una stagione di infilare un mese e passa di vittorie consecutive. E di nuovo l'avete fallito. Cioè, ogni volta che arrivate sul punto in cui vi manca l'ultimo step, toppate. E quando cominciano a essere 2 volte nella stessa stagione a distanza di 2 o 3 mesi, e già ti comincia a raccontare un po' come andare tutta la stagione. C'è qualcosa che non va a questo punto nella capoccia di, forse magari non tutti i ragazzi, però forse qualcuno ti ha già dato tutto quello che poteva, forse qualcun altro effettivamente l'anno scorso si è andato quasi in overperformance, come esatto, si usa dire adesso. Sembra quasi una squadra a fine ciclo, dopo sì, eh sì. 3-4 anni con lo stesso allenatore, arriva quel momento in cui insomma le cose, anche le invenzioni, ad esempio al 333-180-94-94 dice il nostro ascoltatore: pessimo ritorno al 4-2-3-1, Ferguson l'ombra di se stesso. In realtà non so se quanto fosse 4-2-3-1, quanto fosse un 4-3-3 con Odgar che dovesse facesse addirittura la mezzala, non il sottopunta Ferguson, o comunque era più un 4-3-3, e Odgar che ha corso molto anche in difesa, ha recuperato un paio di palloni anche nel primo tempo. Era una sorta di ibrido tra il caro vecchio 4-2-3-1 e il 4-3-3 provato e riuscito nelle ultime gare, che però ha portato Odgaard a fare il doppio della fatica in questo tentativo ripetuto di scambio con Ferguson che è appannato comunque, da mesi. È il Ferguson che conoscevamo, questo è ovvio, non è neanche il primo Ferguson del ritorno dell'infortunio. In questo momento forse Ferguson e Odgar sono i due giocatori che hanno disputato le peggiore stagione rispetto a quello che avevano fatto l'anno prima. Il gap maggiore di differenza è su quella, anche perché si è sempre scoperto dietro. Cioè, io vedo una fase difensiva del Bologna che viene sempre presa di infilata. Era un po' infilato con tanti metri regalati agli avversari. Era un po' che questa cosa era cambiata, l'avevamo detto, no? Italiano ha provato a modulare, anche lui stesso aveva detto: siamo diventati un po' più meno belli, con meno distanza anche tra i reparti, però un po' più coperti e concentrati. Qualcuno dice: è voluto tornare al suo metodo, al suo modulo, diciamo così, contro il Verona, forse sottovalutando il Verona, che comunque l'ultima partita l'aveva persa sì col Napoli, ma al 90esimo, sì, quindi aveva fatto una 95, buona 95, sì, era una bella prestazione, non era la squadra morta. Poi ovviamente io nel calcio è anche cosa di, cioè, capitano dei piccoli episodi che ti cambiano la partita. Se Skorupski fosse uscito sulla palla che crea poi il gol di Frese, pigliava la palla con le mani, c'era Lucumi che sbattagliava con Bowie, ero convinto fosse nero, non so perché, di colore, invece è bianchissimo, è grosso anche, l'avevo immaginato completamente diverso. Ci sono alcuni energumeni nel Verona, c'è un giocatore delle Faroer. Il 5? È cattivo, quello che si è preso Castro, che ha deciso di risucchiarlo dentro al suo corpo. Sì, tra l'altro Castro fa una partita faticosissima, sbaglia tutto, è la settima consecutiva. Sì, perché tenendo conto, diciamo, ne aveva parlato anche Simone nella scorsa edizione sulla scegliere i migliori o fare turnover. La cosa incredibile è che scegli i migliori e giochi malissimo, quindi non hai fatto neanche turnover, neanche da dire ho risparmiato. Diciamo, Locubi e Castro sono in questo momento i due che avevano giocato sempre, che sono anche un po' indispensabili. Cioè, Locubi perché è l'unico difensore buono che abbiamo, e Castro è l'unico attaccante che segna. Dallinga è anche mezzo infortunato, non c'è più Immobile, non l'hai sostituito in sede di mercato, e quindi potevi pensare di preservarlo per una battaglia che sarà giovedì con la Roma. È anche vero che Castro c'ha 21 anni. Può anche giocare due partite. È un po' il momento in cui può giocare anche lo stavo per dire, mo adesso se un 21enne non riesce a giocare per 4 partite consecutive, ragazzi, che stiamo a parlare? Comunque, cioè, ripeto, se il problema fosse soltanto di un accorgimento tattico da sistemare o mandare in forma qualcuno rispetto a qualcun altro, sono ancora problemi abbastanza risolvibili durante la settimana, durante gli allenamenti. Se invece, a quanto pare, tornando al discorso di prima, tu Bologna molli con la capoccia nel momento stesso in cui invece devi scalare di marcia e continui a farlo nell'arco della stagione, e questa è una cosa che c'hai tempo fino a... non c'hai più tempo, perché quando giocate con la Roma? Giovedì. C'hai 48 ore di tempo per sistemare sta cosa, che è grave, che se tu approcci sempre male il momento decisivo, dopo puoi essere in forma o meno, ma cioè, non mi spiego, questo poi il periodo marzo è il momento in cui tu sono decisive le partite. Sì. Adesso non ti puoi più permettere certi approcci, certi cali di tensione, certi cali di concentrazione. È il momento in cui devi dare veramente il 100%. come si dice, frasi fatte, 110%, ok? E forse in questo caso a Bologna non ti basta nemmeno, perché appunto non sembra un nucleo squadra che è più in grado di mantenere la lucidità, la concentrazione nel momento giusto, come l'anno scorso, come nella passata stagione. Vediamo. Poca gamba, pochi piedi, poca testa. No, ma è la capoccia, poco di tutto, esatto. Sembra, bravo Fio, cioè sembra che quest'anno per gli ingredienti della torta siano stati tarati un po' male. Mi spiego? Sembra che forse avete aggiunto troppa farina, forse è stata cotta di meno, adesso in parallelo la cucina per rendere facile l'esempio. Però penso che tu abbia centrato il focus del discorso. C'è qualcosa che non è stato tarato per il meglio, proprio a livello organizzativo degli allenamenti, la preparazione, i programmi mensili, andate un po' così, c'è sempre l'Europa che te la può risolvere. C'è ancora l'Europa e volevo farvi, adesso non ho la statistica sotto, mi sono occupato più della storica vittoria della San Benedettese sul Guidonia, prima vittoria della storia della San Benedettese sulla Guidonia, però se guardo le sfide a eliminazione, cioè seguitemi, sfide a eliminazione, non finali, la finale non è eliminazione, la finale è un'altra cosa, e le sfide a eliminazione Vincenzo Italiano in questi 4 anni ha una percentuale mostruosa. Sì, è arrivato sempre in finale, la finale ha anche perse, però cioè, la finale non è eliminazione, esatto, non è la prossima turno. Non è una finale, non è il turno di qualificazione, esatto. C'è una squadra che elimina quell'altra in un'andata e ritorno o partita secca, può essere, perché è andato in finale anche tra sia con la Fiorentina che col Bologna, ce lo ricordiamo o no? Certo. No, perché sembra un decennio fa, no, sembrava l'inizio del ciclo, ti ricordi 10 anni fa quando è iniziato Vincenzo Italiano abbiamo vinto la Coppa Italia, adesso è un po' frusto il progetto, però devo dire che questa è una statistica che ha a suo favore, adesso non ce l'ho sotto, però se tu guardi ha fatto 2 finali di conference e quindi vuol dire che tutte le sfide di eliminazione le ha vinte, quelle che per 2 anni, 2 finali di Coppa Italia e anche lì le ha vinte tutte, cioè stiamo parlando che quella con la Lazio in Coppa Italia è una delle uniche, l'unica sconfitta di Vincenzo Italiano in un testa a testa. Abbastanza clamorosa, ma ti fornisco un'altra statistica che ci farà un attimo droppare le endorfine, male. Nelle ultime 9 partite in casa ne abbiamo perse 7. Il ciclo per 7 sconfitte in casa, prima di questo, è in 62 partite. 62 partite per precedente. Beh, non male. Temevo, guarda, quando sei partito, temevo ci fosse una vittoria della San Benedettese contro il Guidonia precedente. Cioè, ho temuto che la statistica storica fosse quella, invece no. Devo dire, il vostro ruolino casalingo di quest'anno fa veramente cagare, ma dovete essere felici perché c'è una squadra che sarà capace di fare peggio di voi. E indovina chi è? No, non mi siamo noiati. No. Però volevo dire, dovessi passare il turno, tu ti ritrovi in un quarto di finale Europa League. Sì. E già la stagione comincia a sembrare non meno così brutta di quello che insomma può apparire. Esatto, è una di quelle opportunità in cui se la squadra c'è e ancora l'allenatore è presente in questo gruppo al 100%, diciamo così, esatto. Non è alla fine di quel ciclo, è una di quelle partite in cui devi dare il 100%. Abbiamo visto il Bologna dopo la finale di Coppa Italia giocare senza completamente energia, svuotata dall'energia della vittoria della Coppa Italia. Questo è il momento in cui buttarla tutta l'energia possibile, è l'unica cosa che hai. Anche la Roma non sta benissimo, diciamo così, qualche problemino inizia a averlo. Ma qui c'è già odore di top 5. Bravissimo, e noi non vorremmo anticiparla, anche perché c'è una canzone prima e poi la pubblicità e dopo appunto top 5. Yeah. Ci ributtiamo dentro alla seconda parte di trasmissione, quella dedicata alla top 5, alla top 5. Arrivano altri messaggi, c'è da dire che il Verona ha meritato la vittoria e questo è tutto dire. Siamo d'accordo soprattutto con la chiosa. Esatto. Questo è tutto dire. Bene, ok, chiudiamo questa finestra e ne apriamo un'altra, quella sulla top 5, le cose che ci hanno colpito in questo fine settimana. Allora, un fine settimana in cui se uno parlasse di calcio come se fosse un neozelandese che si approccia al soccer. Oh yeah. E gli hanno dato una stanza d'albergo per star chiuso dentro, tipo a Dubai, dove può vedere solo la Serie A italiana. Un bel posto in questo momento. Dubai, per esempio, dove per andare? Esempio, se sei in Nuova Zelanda, tra l'altro, è anche scomodo. Avrebbe comunque visto una roba che telefona a casa e dice: ma sapete che il calcio italiano alla fine, cioè, non ho capito tanto bene come funziona, poi dopo c'è questo problema della classifica che rende tutto ancora più difficile da leggere, però non è male, regala alcuni momenti, alcuni spunti, alcuni slanci. 5 di questi slanci sono in questa top 5 e c'è quella che, a modesto parere della redazione di questo programma, è forse la partita più bella della stagione di Serie A in corso finora. Parliamo di Atalanta-Udinese. Atalanta-Udinese, così. Avresti mai detto che l'Udinese, no, di Costa Rugnac poteva fare la partita più bella della stagione? Sì, perché l'Udinese può fare sia la partita più bella che la partita più brutta. Bello, fa tutti e due i modi, come dice. Vince tutti e due gli Oscar per attore protagonista e non protagonista nello stesso momento. Va tutto bene, però ci vuole che qualcuno mi faccia parlare con i diretti responsabili di marketing e design dell'Udinese, perché vorrei capire chi gli ha detto, cioè chi gli ha fatto credere che vestire la propria squadra di oro e argento, che in realtà è grigio, io lo capisco, è l'anno olimpico, Milano Cortina, ma ha delle divise veramente orrende. Cioè, anche ieri, di nuovo, il grigio sulle maglie da calcio, no! E non so più, Fio, aiutami, Fio, per favore, non so più come dire. Allora, non credo... perché loro continuano a dire è argento, no, viene male, viene esteticamente brutta. Credo che quelle tonalità siano scelte neanche per esigenze televisive da televisore 4K, di quello che ha il piacere di vedersi una partita, ma proprio di streaming, cioè di essere trasmesse con la banda che c'è per arrivare sui dispositivi portatili, in particolare cellulari e tablet, del più scalzacane che c'è in giro per il mondo, che ci ha caricato 2 euro sul risultato finale. Ci sta come spiegazione. Non cambia il fatto che tra la divisa oro della settimana scorsa e questa qua, l'Udinese veramente non si può guardare in campo. Ma dici così, ma, e poi al 55esimo arrivi. Che hai l'Udinese padrona del campo, e il campo è... Il campo è sincero. Il campo è sincero, dice la verità, e i 2 gol dell'Udinese sono anche di pregevole fattura. Cross di Zaniolo per avvitamento aereo e capocciata di Christensen, bel giocatore, e Keenan Davis che fa la punta in un'azione a suo modo convulsa, ma a suo modo anche ordinata. A quel punto l'Udinese è in vantaggio a Bergamo per 2-0. È questa Atalanta che giocherà in Champions League domani, l'unica italiano che è ancora in Champions League col Bayern Monaco. Sì, una squadra facile. Si fa anche pescato facile, diciamo. E abbiamo imparato però che quel signore con la pettinatura un po' madman che c'è in panchina a Bergamo, che tra l'altro ha vinto il premio di allenatore del mese per il mese di febbraio, Raffaele Palladino, comunque è riuscito ad entrare in sintonia con i suoi e a fornire il giusto livello di motivazione, se non altro. E quando il gioco si fa duro succede un po' di casino, e succede quello che un po' ti aspetti ma un po' non te lo aspetti, cioè una doppietta di capocciate di Scamacca. E pensate, è un cruccio di questa redazione, quanto sarebbe forte Scamacca se riuscisse a stare calmo, cioè se riuscisse a dosare l'animale che gli brucia da DNA dentro. Ricordiamo, da DNA, sì, proprio si porta, si porta una, dietro una storia familiare si affascinante. E ne fa 2 capocciate. L'ultimo. Ci credi tu che io non ero in quel momento davanti allo schermo? Quando ho letto, ho sentito, mi sono accorto che l'Atalanta aveva fatto il 2-2 senza sapere chi avesse segnato. Ero sicuro che avesse segnato, indovina chi? Pasani. Bravo. avrà fatto ero sicuro di che cazzo. Questo è il gol di Pasani, è proprio il suo, e invece no, doppietta di Scamacca. Era in campo, era in campo. Sì, era in una fase in cui gli riusciva tutto, perché Pasani, ci ricordiamo, è uno che sa fare tutto. Giocatore, certo. Per me ancora del tutto inspiegabile. È inspiegabile come giocatore, ma nel senso positivo. Cioè, giocatore incredibile. E l'Atalanta ti dimostra però come è fatta, che cosa tira fuori una grande squadra. Sì. Per riunirmi al tuo discorso, domani affronti Bayern Monaco, una sfida veramente quasi impensabile fino a qualche anno fa per il pubblico di Bergamo, che invece fortunatamente è una realtà ormai costante da anni, e te la va a pareggiare. Ti vai a pareggiare con anche una nomination oltre la Scamacca. E Carnesecchi ha centrato la stagione, quella definitiva, secondo me, quella che ti distingue tra l'essere un ottimo portiere e un portiere un po' di più. Un portiere da nazionale, vice di Donnarumma, penso ormai fisso, no? Ce l'abbiamo. Insomma. Non irresistibile sul gol di Davis, ma poi nel finale... Io ho capito, però sulle uscite basse, sempre un portiere basso, anni 70-80, non c'ha paura di niente, è veloce, è reattivo, grande stagione la sua. Grande Atalanta. Perché poi sul 2-2 l'Udinese ha diverse opportunità in ripartenza, in contropiede, di andare a insidiare la porta di Carnesecchi. Lì un po' la mira dei ragazzi di Costa Rugna, c'è quella che difetta, ma il modo di coprire lo specchio di Carnesecchi sta facendo una grande stagione. Tanta roba. Sì, tra l'altro quel pareggio lì, il pareggio dell'Atalanta, era quello che al Bologna avrebbe dovuto dare quella spinta in più, perché con una vittoria saresti andato a 4 punti dall'Atalanta. Anche loro con l'impegno europeo molto più ravvicinato del Bologna e molto più difficile. È anche più intenso, sì. E invece, è andata così. Comunque complimenti alle due squadre, sì, anche all'Udinese, che comunque è la tipica squadra che non ha niente da chiedere alla classifica, lo diciamo tutti gli anni, in realtà è a meno 3 dal Bologna. No, ma l'Udinese, se c'è qualcosa che deve chiedere a qualcuno, è il proprio designer del proprio deve avere delle magliette, chiedere spiegazioni, gli manca solo quello solo per quello. Poter ambire all'Europa, non ti fanno andare in Europa con delle magliette così. L'Europa è un invito a un gala serale, tu non è che ci puoi andare vestito della Kundalini come ci va questi qua. Caso ci dovessi andare, vorrei che ci andassi con sponsor Io Sono Friuli Venezia Giulia. No, è troppo lungo, un acronimo, una sigla, qualcosa insomma, che racchiuda, che ne so. No, ma poi mi immagino qui. Ma tu sei Zibue? No, io sono Friuli Venezia Giulia. Ok, molto bene. Parliamo di un'altra maglia di una bruttezza singolare. Secondo me questa è ancora più brutta della maglia cromata dell'Udinese, perché ha il dramma, porta con sé il dramma di rinunciare al rosso-blu. Cioè, se tu sei una squadra con i colori rosso-blu, puoi giocare in rosso-blu. Se dici voglio fare una maglia arancione perché sono matto, è un bellissimo colore l'arancione, puoi fare una bellissima maglia arancione. Invece, in un momento un po' zen e un po' Lucio Battisti, scelgono per una tonalità di arancione pesca, melone, salmone, che alla fine finisce per riuscire male nel suo intento. Parliamo della maglia con cui il Cagliari in casa ha affrontato il Como, bellissima partita. Ma questa cosa qua deve finire, perlomeno per quanto riguarda quando giochi in casa, il tifoso di casa vuole vedere i colori della squadra di casa. No, non è difficile da capire come concetto. E noi condividiamo. E invece non ci sarà, quando sei trasferta, sei già abituato a vedere un'altra maglia, quindi è lì che puoi provare quella diversa. Il problema è che se poi è uguale a quella della squadra con cui giochi, ma una cosa è problema. Però capisco e sono d'accordo, in casa si gioca con la prima maglia, non è difficile, cazzo, niente da fare. E invece questa che sembrava una pistoiese mista ad un'Olanda, e chi ci sta ancora d'arancione, non mi viene in mente adesso. Il Palermo quando dai pugni al televisore per problemi di sintonia. Quel rosa chiaro tende a trasformarsi. Adesso fatti scherzi, guardando il Cagliari ti rimane sempre negli occhi però come gestisce la propria fisicità, la propria atleticità Marco Palestra. C'è anche il gol del Cagliari di ieri, il gol di Esposito. Lui si fa tipo 50 metri senza respirare, cavalcando sopra qualsiasi cosa, poi la rimette al centro, sponda ed Esposito che segna dopo 3 mesi, se non ho capito male. No, così tanto era il gol. Il gol è davvero molto bello. Sì, era un bel po' che non segnava. Il gol è davvero molto bello perché l'azione la inizia Esposito. Esatto. La progressione clamorosa la fa Palestra, il traversone a cambiare tutto, trova pronto all'inserimento Esposito che sfonda, che usufruisce della sponda di, non mi ricordo chi adesso, mi sfugge. Molto bello, però era già il gol del momentaneo pareggio, perché il Como era già passato in vantaggio. Questo Como da Champions qua non ci si può far niente, persino un giallo per simulazione al Cagliari nell'azione che poi porta al gol del Como. Poi bisogna essere fortunati, bisogna essere bravi e fortunati. Perché... Scusa, ha ragione, la Pistoiese e il Blackpool. Un saluto da Francesco. Okay, bravo, okay, bravo, okay, bravo. Mamma mia, questi Blackpool. Ascoltatori, ragazzi. Bravo, ci sei piaciuto. Tra l'altro, Blackpool, posto bravo, incredibile, perché è tipo Riccione in Inghilterra. Cioè, quindi un posto di mare con una parte, discoteche, dove fai il bagno 3 giorni l'anno. È un freddo la mano. Posto drammatico, una tristezza. E sono ragioni a quel punto adesso. Dai, non inferisci gli inglesi che ultimamente li prendiamo a schiaffi in ogni settore, pure in settori in cui in teoria non dovremmo, quindi da poverini. E... comunque questo combo, dicevamo, lo so che tu non ami questa situazione qua, ma cerchiamo di rimanere lucidi, parliamo soltanto del campo verde. Non puoi, come fai? Vabbè, Mingo, com'è possibile così? Abbiamo già fatto la settimana scorsa. Non è che puoi tornare lì. È vero che ci stanno ascoltando anche dallo splendido lago di Como. Adesso, grazie al DAB, arriviamo anche in Lombardia. Però già abbiamo parlato, siamo riusciti a parlare bene una puntata. Perché io non c'ero. In assenza del buon Fiò, mi sembra troppo quello che chiedi. Sono stati clamorosamente fortunati, diciamo. Molto fortunati, molto fortunati, tanto, proprio assai fortunati. La buona sorte proprio li ha accompagnati parecchio, un bel po'. Diciamo che nella lista di episodi molto fortunati del Como di quest'anno, questo è uno dei tanti. Allora, ho una domanda, temo la risposta. Quale squadra preferiresti in Champions tra Juve e Como? Oh, guarda, sono in grande difficoltà, sono davvero in grande difficoltà. La Roma. Tra Juve e Como? La Roma. Verosimilmente la Roma, sì. No, tra Juve e Como. Tra Juve e Como faccio fatica a rispondere perché aspetto di capire come si comporterà la UEFA sul mercato della Juve. Perché potrebbe avere il mercato bloccato. E quindi lo mandiamo in Champions. E sarebbe divertentissimo. Ah, mandarlo in Champions. In quel caso sarebbe effettivamente divertente. Va bene. Però questo... che gol fa da Cugna? Adesso, vabbè, si portano a casa 3 punti con un'altra sassata. Cioè, gol clamoroso. Bello. No, ma infatti se ti limiti ai singoli episodi, poi hai del grande pregio nel giocare a pallone. Purtroppo non siamo allo Sheffield Football Club nel 1886 dove giochiamo a L contro MZ, poi settimana prossima lavoratori autonomi contro lavoratori dipendenti, camera dei pari contro camera dei lord e il risultato lo scriviamo su una lavagna alla fine dell'anno. Non è così il calcio, quindi non possiamo transigere da alcuni indirizzi che la partita prende a causa di grossi colpi di fortuna. Va bene, ok, però la prossima settimana c'è Como Roma e quindi sarà un test importante perché la lotta alla Champions in questo momento è veramente molto risicata e molto stretta. La sconfitta della Roma aiuta il Como in questo caso. In questo momento sono pari punti Vedi com'è fortunato il Como. Anche le altre squadre perdono. È fortunato questo Como. Vabbè, è molto fortunato, è a pari punti. Questi vanno in Champions. Pari punti alla Roma con una differenza reti molto migliore. Posso fare una domanda tecnica? Nel caso in cui il Como andasse davvero in Champions, deve fare circa 180 milioni di mercato in uscita. No, non è quello che volevo dire, È lo stadio del Como. È abilitato per la Champions League. Ma no, comprano San Siro. Ah, ok. Che problema c'è? Sono fortunati, troveranno anche un giorno in cui costa poco per comprarlo. Guarda come risolviamo la questione, Beppe Sara c'è pure questa botta di culo. San Siro destinato alla demolizione per fare spazio a due impianti molto, molto green, molto inclusivi, che probabilmente costruendosi desigilleranno territorio. Perché è un paradosso che nel centro-sinistra di governo in Italia... Non mi rovinare quello che secondo me sarà uno dei massimi capolavori che l'Italia ci può regalare, questa storia di San Siro, degli stadi. Io prevedo un marciame, un disastro quelle bombe... All'insegna della fortuna. Certo. All'insegna della fortuna. 51 pari a quelli della Roma ai punti del Como in classifica. Dicevamo con una differenza reti molto migliore perché la Roma paga gli 1-0 della prima parte di campionato. E abbiamo detto Roma, abbiamo detto 51 punti la Roma. Ecco, andiamo a Roma, anzi andiamo a Genova per vedere uno scherzo di quelli proprio veramente riusciti. Eh sì, è un gioco proprio di emozioni clamoroso. Torbide di emozioni contrarie, di amori, di tradimenti, se vogliamo metterla nella narrativa che insomma tanto può piacere. Daniele De Rossi che batte Ercori. Ok, che deve battere il cuore suo e lo fa con un 2-1 con un Genoa, devo dire pimpante. Forte, il Genoa produce una quantità di expected goals mostruosa confrontata a quella della Roma, lasciate stare il calcio di rigore che vale 0,7, noi una cosa che ci piace dire, perché se no uno non capisce gli expected goals, cioè secondo l'inventore della statistica applicata al calcio, un calcio di rigore ha 7 possibilità su 10 di diventare una rete. Esatto. 0,7 è il calcio di rigore realizzato, trasformato da Junior Messias, il rigorista che non ti aspetti, che è arrivato, immediato il pareggio della Roma con una zuccata di Indica che cerca ancora un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Quattro partite che va segnando questo qua. E quello di ieri è particolarmente casuale, mi sento di dire. Secondo me a un certo punto si gira per vedere dove è andata la palla, non lo sa neanche lui, si gira dall'altra parte, se vai a vedere. Dove è andata? In alto, un pallonetto di testa incredibile, un po' di fortuna anche lì, ma non quanto il Como, cioè fortuna la Roma, ma non quanto il Como. E a chiudere i conti nella seconda parte del secondo tempo c'è Vitigna che mi diventa una sorta di Dallinga funzionale. Ce l'ha. A quanti gol passa però Vitigna in stagione? Questo fa centrocampista, è una punta. No, una punta. È stato pagato per punta, ecco. Okay. Questo però va in bravo. Quarto gol in stagione. Non voglio dire nulla, ma il magnifico assist che manda il gol Vitigna a porta vuota è di quel pezzo di cuore rosso-blu che a cui bravissimo. Non smetterò mai di voler bene. Quindi a Patrizio Masini che fa un penetrazione in area sull'esterno fantastica. Io l'ho visto fare tante volte in quei piccoli e poveri 6 mesi. Grande Patrizio, continua a voletti bene Patrizio Masini, continuo. Comunque siccome siamo in Italia il giovanissimo Masini c'ha 25 anni fatti, eh? Sì. Beh, cioè, esatto. Il giovanissimo Masini. Bravo. E a questo punto abbiamo terminato quindi il punto. Andiamo, e cosa chi manca? Allora, abbiamo 2 punti importanti. Manca 5 minuti. Sì. Allora, c'è un focus sulla salvezza che incidentalmente passa per lo Juventus Stadium. Sì, ok. Sì, perché noi abbiamo affrontato un Pisa contro cui abbiamo vinto con il tiro della domenica, il gol probabilmente più bello della scorsa giornata di Serie A di Jens Odgaard, che va a Torino a giocare a pallone per un tempo e sembra che possa giocare a pallone per un tempo. Il problema è che dopo il primo tempo c'è anche il secondo tempo, dove la Juve li prende a pallate. Prestazione molto malinconica per una squadra che ha già salutato abbondantemente la compagnia, molto 4-0. Poche discussioni. 4-0, insomma. Migliore in campo Arturo Calabresi, quindi un difensore centrale mezzo infortunato, tra l'altro. Che chiede scusa ai tifosi al termine della partita. Che racconta proprio tutto di una stagione storta. Storta, sì, era complessa. Del resto, insomma, le neopromosse soffrono in questo momento. E anche la Cremonese, che a inizio campionato ci aveva fatto brillare gli occhi, diciamo così, era partita molto bene, no? Facevamo anche il paragone che era una partita come l'Leicester dello scudetto, le prime 6-7 partite. È lo sliding door della Cremonese come quello del Bologna, è Bologna-Cremonese al Dallara, cioè da lì in poi si è rotto lo specchio. Si è rotto il Bologna e si è rotta anche la Cremonese. Ieri ha rischiato di pareggiare tipo 3-4 volte in un minutaggio che va dal 92esimo al 97esimo e non c'è riuscita. Con un Vladimiro Falcone on fire. Assolutamente protagonista. Sì. Però vittoria importante per Di Francesco, che insomma inanella una serie di vittorie che lo portano, non dico salvo perché lì la situazione è alta, dai, Difra, dai, le quest'anno. Guarda dai. Finalmente dall'alto, ecco. I tifosi del Lecce sono impazziti perché vorrebbero uccidere Stulic, ma col rigore di ieri ha portato comunque dei punti a casa fondamentali. Sì. Ieri ho letto la più bella: la Cremonese per salvarsi dovrebbe fare una sola mossa, la mossa Kansas City, cioè dovrebbe licenziare Davide Nicola, far passare una, massimo 2 giornate per e poi riassumerlo perché sfruttare le capacità assolutamente fuori categoria di Nicola da subentrato. Lo sai che per quanto pazza potrebbe essere, potrebbe essere una tattica macro larga, però violi alcuni articoli di legge. Siamo in Italia. Fatta la legge, trovata l'inganno. Anche la fortuna vuole la sua parte. Diciamo, l'ultima momento... chiamata, mi sembra di poter dire, è la prossima giornata polposa, perché c'è Cremonese Fiorentina. Mamma mia! Quindi è l'ultima chiamata per la Cremonese. Eh sì, in questo momento la Cremonese è la prima delle retrocesse. Cioè, 24 punti prima delle retrocesse. E la Fiorentina ultima delle salve, con solo un punto sopra i grigio rossi di Pinola. Sarebbe male che i crali riportassero giù, non no? Sarebbe, in piena battaglia. Poi la Fiorentina si salva sicuramente. Sicuro. Però soffrire fino alla fine potrebbe essere più divertente. La Fiorentina fa un puntaccio in casa col Parma, una partita veramente orrenda, con anche con anche l'handicap ulteriore di essere trasmessa in contemporanea a Bologna-Verona, un'altra partita orrenda. Un pomeriggio alle tre, il classico pomeriggio alle tre, che è la partita dovrebbe essere la domenica alle tre. No, quello è l'orario. Invece abbiamo scelto le peggiori performance possibili. Due partite soltanto, un gancio veloce, bisognerà parlare un attimino di Serie B, ma lo facciamo dopo, durante il calcio internazionale, se abbiamo un minuto. Certo. Perché succedono cose, succedono chiudiamo cose. La top 5 con Elder Bazzo, quello che ha causato la tonsillite e il rancore nel nostro regista titolare. Salutiamo l'ottimo Dado. Diventa una masterclass di Allegri, una partita di una bruttezza peculiare, di grande intensità, di grande concentrazione, ma comunque brutta, in cui un Inter senza attacco titolare, affidando il reparto avanzato a Bonny, con due protagonisti della stagione, Mkhitaryan sì, ma soprattutto Di Marco, che si prendono il lusso di sbagliare delle cose che non puoi sbagliare, e alla fine il derby è un derby da tre punti, va al Milan e il protagonista è quello che ti aspetti meno di tutti. Mi piacerebbe sapere due protagonisti, perché io ho letto dagli amici milanisti che Fofana praticamente non fa nulla, e poi però una volta a partita sembra Modric che ce l'ha lì accanto, fa una sola cosa alla Modric. 80 secondi di Fofana on fire, sì. che mandano in porta Pervis e Stupinian. Mi piacerebbe essere dentro uno di quei programmi di statistiche soprattutto sulle scommesse mondiali, per capire quanti hanno scommesso Godi e Stupinian su assist di Fofana. Così è uno scotto su 12 miliardi di scommesse. Te lo dico, in 6 sono gli stessi che hanno beccato la serata del bombardamento israelo-americano sull'Iran. Ah, gli stessi 6? Sì, gli stessi 6. Che stanno vincendo scommesse. C'è qualcosa scommesse. Sotto, mi sento di dire che c'è qualcosa sotto. Se non vogliamo fare i complottisti, ma... I due indizi non fanno una prova, ma... In questo momento l'Inter ha comunque 7 punti di vantaggio e... Dai, lo scudetto è vinto! Si è messa nella posizione di essere la principale contender per uno scudetto senza aver mai vinto uno scontro diretto. Ha battuto uno la Juventus uno solo, uno in solo. Quella maniera lì, sì, in quel modo lì. Ricordo a Dado che lo scudetto è già vinto e poi l'ultima giornata giochi col Bologna, tra l'altro, fantastico. Segnaliamo invece agli amici milanisti in ascolto che dopo la fine dell'esperienza di Pioli, 7 derby giocati, 7 derby vinti. Pioli sono sette derby non persi. Dopo che veniva dal Sicilia di tipo 25 derby persi consecutivi, una cosa leggera. Devastante. E allora abbiamo chiuso così la top 5. Ed eccoci qua pronti per la terza parte di Caffè e Paglia, quella dedicata al calcio internazionale, ovviamente come sottolineato anche dalla nostra base. Calcio internazionale che ci ha regalato grandi emozioni. Vorrei partire però da una storia strana, una storia particolare di un campionato che con questa voce un po' più che schifo. invece non mi era neanche dispiaciuta. Un campionato che non abbiamo seguito fino adesso, ce ne dispiacciamo perché il risultato che si sta avvenendo è veramente importante. Stiamo parlando della Super League Svizzera. Non è un gran campionato, però il Bologna ad esempio ci ha pescato ultimamente, è anche abbastanza bene, direi. La nazionale pure esprime anche un certo livello. Ad esempio, il mercato del Bologna spesso, anzi le cose più interessanti direi, perché Calafiori, Ndoye, sono, arrivano da lì e sono quelli che poi ti hanno portato anche più soldini in cassa, diciamo così. Dicevo appunto, questo campionato è guidato dal Thun, che potrebbe essere il tonno, ma non credo che in Svizzera. Allora, Thun sono le statuette degli angioletti soprammobili della borghesia conservatrice di tutta Europa. Ok, è proprio quello, quindi deve essere la squadra peggio del Como, capito? Però ha 14 punti di vantaggio ed è neopromossa. Ed è una roba, ed è una roba, ma non è l'unico tema della, di questa particolarità di questa stagione del Thun. Devi sapere che il Thun ha fatto solo 17 campionati di Serie A, svizzera ovviamente, e, quindi una squadra, insomma, la Cremonese, cioè, o Pisa, ecco, una squadra di quel tipo lì, no? E, una volta però ha fatto una grande stagione, 20 anni fa, fece una grande stagione da neopromossa il secondo anno e arrivò seconda in campionato. Il capocannoniere era quello che adesso l'allenatore della squadra che sta portando allo scudetto. Clamoroso. Cioè Mauro Lustrinelli, questo è il nome, non l'avevamo mai sentito, o almeno Simone, che è uno che segue anche il campionato Under 19 dell'Azerbaigian, forse conosce Lustrinelli. E invece no, non l'ho mai sentito. E questa è una gran bella storia, però, questa che arriva dal cavallo. Cioè, se riuscisse lo stesso, cioè, tu pensa al tifoso. L'ultimo che ce l'ha fatta credo sia stato il Kaiserslautern in Germania, tipo fino al 90, non mi ricordo che periodo, che vinse da neopromossa, che vinse con una, non so se c'era ancora, ve lo ricordate, Augenthaler dovrebbe essere stato il capitano di quella squadra, cioè torniamo indietro di più di 30 anni. Sì, questo è ovvio. Poi, ma la cosa proprio di Lustrinelli stesso, che è arrivato secondo in quel campionato e gli è rimasto, no? I tifosi comunque immagino, no? Se lo ricordo, cioè, è Lustrinelli, quando arriva Lustrinelli fa Lustrinelli e ti porta a vincere lo scudetto. Come farà che Netflix a non farci una serie? Non lo so, è impossibile che Netflix non ci faccia una serie. Fio, che ne dici tu? Perfetto. Poi la Svizzera ha un'ambientazione per raccontare montagne, queste storie, capito? Laghi, fiumi, cioccolata, e poi lo vorrei dire, ma è molto vicino a Como. Ma è buona ricerca, vieni un po' chi sono proprietari, tra l'altro, adesso la Stockhorn Arena di Thun sarebbe un bellissimo stadio per le partite di Champions. Potrebbe giocare in Svizzera al Como, 10.000 posti che vanno bene, ma se il Thun vince il campionato, però, collegandosi a Netflix potrebbe fare una figura di quanti attori possono prendere. Vedo già uno Chalamet che fa Nico pazzo, anche se non gli somiglia, però fa tutto lui adesso. Tra l'altro, su Timothy Savini, ma è diventato una rubrica cazzeggio internazionale. Comunque, non so se come la pensate voi, ma Timothy Savini, se gli diamo un Oscar, magari la smette. Quindi, per favore, diamoglielo, così lo togliamo. Sì, è una di quelle battaglie di civiltà. Come, ce lo togliamo, non so, io andrei a parlare con Chiara Ferragni per vedere se riesce a prendere un caffè con Fedez, così la smette perché ci ha frantumato i maroni. Cioè, sono cose su cui possiamo intervenire. Ero a Parigi settimana scorsa e sui pullman di Parigi, gigantografie di Chiara Ferragni per una nota marca di bigiotteria, immagino. E tra i miei chiedevo, ma questi lo sanno chi è sta bionda che mettono sui pullman, che cosa va combinando? No, probabilmente è lì proprio perché non lo sa. Bravo, perché hai detto Parigi, e questo ci porta a entrare in un campionato in cui davanti può succedere ancora di tutto. E noi, quando parliamo della Ligue 1, spesso siamo un po' così superficiali, ci dobbiamo perdere un po' più tempo. Resti ad entrarci, ma in questo momento è un campionato che bellissimo, è forse il più bello d'Europa, lo posso dire, a livello di battaglia, di qualità espressa, perché male, il PSG le prende in casa, poi dal Monaco. Esatto, sì. 3-1 la partita del ritorno, c'è stato quello della sfida di Champions, no? Non c'era stato il derby di Champions? Sì, vinto da PSG. Il PSG aveva eliminato il Monaco, diciamo, si prende Acliuce, mi sembra si pronuncia, il ragazzino che porta in vantaggio il Monaco, fortissimo, è uno di quei talenti che tanto la Francia riproduce. Aggetto continuo, e il Monaco se la porta a casa giocando anche bene, cioè non è che una vittoria risicata o casuale o fortunata, no, vittoria piena, meritatissima. Il terzo gol lo fa Balogun, che è americano, è super in forma, yeah. In questo momento è a 6 gol nelle ultime 5 partite, sì. Non male. E la battuta d'arresto del PSG fa sorridere, e un bel po' il Lens che vince 3-0 in casa rotondo contro il Metz, ennesima partita da protagonista di Florian Thauvin, grandissimo, clamoroso, che ha realizzato clamoroso anche il rigore decisivo in Coppa, con cui mi sembra che il Lens sia già in finale di Coppa di Francia, se non ho capito, la stagione clamorosa quella dei giallorossi, e a un punto della vetta, ed è un punto della vetta, rischia di essere una stagione veramente incredibile, è in semifinale, contro il Tolosa, semifinale. E dall'altra parte Strasburgo e Nizza, quindi... Tolosa, mi fai un aggancio, perché il Tolosa, se non, credo sia ufficiale o comunque quasi, ha messo sotto contratto quel canadese di cui vi parlavo per il Bologna post Zirze, cioè Jason Russell Rowe, credo che l'abbia preso il Tolosa o comunque è lì. Ok, grazie per l'aggancio, Mingo, perché Tolosa da cui abbiamo curioso. Già preso dall'Inga, quindi dobbiamo stare un attenzione, po' calmi. Attenzione, vedi che la... No, questo è forte, questo è il canadese forte. Dicevano così anche di dall'Inga. Dicevano gli altri. Io non te l'ho mai detto che dall'Inga fosse fortissimo. Comunque, il campionato francese, di là di scherzi, che è bello, bello pimpante, ritmo, qualità tecnica clamorosa in quasi tutte le squadre, praticamente, perché appunto il bacino d'utenza, il bacino di produzione dei talenti francesi è praticamente illimitato. Eh sì, con tanti giovani, tante nuovi giocatori che scopriamo grazie a questo campionato, in questo momento anche molto aperto, perché la sconfitta del PSG ferma 57 punti i parigini, appunto, e la vittoria del Lens li porta a un punto solo, quindi 56-57. Non ha ancora segnato Ciro Immobile. Non ha ancora segnato Ciro Immobile, per ora. Fa un punticino il pari a sé, ma... Nell'ultima partita credo non fosse neanche tra i titolari. Dopo una lunga, dopo le prime che aveva giocato da titolare, l'ultima non era tra i titolari. E abbiamo parlato di un campionato molto aperto, adesso parliamo di un campionato in cui al secondo posto c'è una squadra con 55 punti e 53 gol fatti, al primo posto una con 66 punti e 92 gol fatti. Ma possiamo noi... Non avevo dato. Noi dovremmo smettere serenamente con la Bundesliga. No, possiamo. Infatti dovremmo smettere in favore di qualche altro che prese, ma ricominciato l'MLS, quindi dovremmo cambiare. Sostituirla. Sì, ma sì, dai, cioè non c'è più niente da dire in Bundesliga. Sono 11 punti, sì. Tra l'altro anche il mio Colonia sta clamorosamente calando, e in questo momento è pari punti al San Paolo e al Magonza al terzultimo posto, cioè quello che porterebbe allo spareggio con la terza della Schweiz Bundesliga. È un bel casino, là sotto. E tra l'altro il San Paoli fa un passo avanti, perché fa un pareggino con l'Union Berlino, che è, diciamo, no, scusate, con l'Eintracht Francoforte in casa. È quello 0-0 che è un brodino per i ragazzi del lato matto di Amburgo. Eh sì, quello è un brodino, vedremo com'è la situazione. Il resto, appunto, cioè, lo lasciamo stare perché ormai è quasi tutto deciso. Non c'è niente da dire, andiamo in Spagna? Andiamo in Spagna con lo Pimpan, che invece è cambiato lì ancora. C'è il Barcellona che stavolta penso che più 4 il Barcellona sul Real Madrid. Hanno vinto a Bilbao, disgraziati, con una gemma di Lamine Yamal. Sì. Il Barcellona in realtà svolta la partita solo quando entra Pedri, perché in questo Barcellona, se sì Yamal, che il face è il volto della rock band, ok, è il cantante, che naturalmente il riflettore è tutti per lui, ma se Yamal è il cantante della band, Pedri è la sezione ritmica per intero. Perfetto. Cioè bassista più batterista messi insieme, e lo sanno tutti, il vero segreto, il vero cuore di una rock band è la sezione ritmica, non è mai il cantante. Quindi quando entra Pedri il Barça prende i meccanismi che conosce a memoria, e infatti il gol arriva sull'asse Pedri, tu Yamal rientra sul sinistro e la mette come sa fare lui, no? All'incrocio, a giro, palo, gol bellissimo. Quei gol brutti che fa lui. Peccato che prova contro l'Atletico Bilbao. Eh sì, tra l'altro perde anche la Real Sociedad, 3-2 con l'Atletico Madrid, l'assist di Ruggeri dell'Atletico Madrid. Ruggeri che sta iniziando a carburare bene. Sì. Uno dei pochi italiani che insomma, era Spadori, era compagno di squadra, ma non ha mai giocato praticamente. E insomma, uno di quelli che sta prendendo piede. Tra l'altro ha fatto 4 assist nelle ultime 4 partite giocate, quindi mi sembra anche produttivo in fase offensiva per l'Atletico Madrid, che rimane la terza forza del campionato. Il Real la svanga allo scadere a Vigo sul campo del Celta al Balaidos. Ci abbiamo vinto anche noi. Va subito in vantaggio con Tchouaméni, la riprende l'eterno Borja Iglesias e al 94esimo Valverde riesce a portare i tre punti ai Blancos. Continuiamo perché è stato davvero un bel weekend, parlo di tutta la penisola iberica, adesso poi vi spiego perché. Perché in Mallorca o Sassuolo i nostri eroi Budimir e Muriqi vanno in gol entrambi, uno con una doppietta. È stata una partita spettacolare, per questi bomber transitati da noi sembravano attaccanti normalissimi, niente. E invece no, invece in Spagna segnano come dannati e ci regalano questo bel questa pimpante partita. Sì, l'unica squadra scontro. Basca che Basca, porta a casa un esatto. punto è l'Osasuna, che tra l'altro segna all'89esimo il 2-1 e al 94esimo il 2-2 con... in 10. Perché vi dicevo della penisola iberica? Perché di là, verso l'oceano, c'era il mega scontro Benfica-Porto al Dalus, che è uno stadio clamoroso quando decide di scaldarsi. Finisce con un roboante 2-2, Mourinho espulso, ma Farioli decide di far debuttare un bimbo, Pitu Zieschi, 17 anni, che fa un gol della Madonna, mettendo, sdraiando per terra Otamendi, che è uno dei nomi dei difensori più in, diciamo, degli ultimi decenni, ma lo mette a sedere proprio come se fosse, cioè, a ruoli invertiti, lui 17 anni, Pitu Zieschi il 30 e passa N, gol fantastico, Porto che va sul 2-0 al Dalus, poi invece la banda di Mourinho riesce a riprenderla. E quindi gran bella partita. Anche quello hai fatto bene a sottolineare. Allora a questo punto ci possiamo spostare nella perfida Albione, andiamo a vedere la Premier League. Andiamoci. Rimane comunque in vetta l'Arsenal e a noi un po' ci fa piacere questo cambio, anche se ho letto un dato di quanti minuti abbiano cioè il dato, hanno calcolato il dato in cui il gioco delle partite dell'Arsenal è stato fermo per preparare a calci d'angolo, è un numero spropositato, cioè ma ho letto anche molte critiche, cominciano ad arrivare molte critiche verso questo atteggiamento, ma anche dai protagonisti stessi della prima, allenatori, lo stanno segnalando proprio dopo queste polemiche avevano dato, non ricordo bene il dato, ma è un dato clamoroso. Non dirò contro chi gli auguro di giocare a pallone per vedere come si perde tempo, perché in Serie A abbiamo un grande campionario di perditori di tempo. L'anno prossimo rischi di vedere Como Arsenal, stai attento. Sarà bellissimo. In Svizzera. Como Arsenal in Svizzera. A Thun. Potrebbe essere. Attenzione, che segnaliamo in Inghilterra che il Wrexham, la squadra di Ryan Reynolds, se non ho capito, cioè Deadpool, cioè avete presente Deadpool del cinema, in realtà è il padrone o socio del Wrexham, che quasi ce la fa contro il Chelsea. Sì. Non ho letto male, sì. se la gioca. Parte in vantaggio, ma poi perde 4-2 nel finale. Hai capito Deadpool come va? Non male. Interessante diventa la zona salvezza della Premier, perché il West Ham vince col Fulham, finalmente torna la vittoria, e aggancia il Nottingham Forest. Ma a un punto sopra c'è l'ottimo Tottenham di Tudor, clamoroso, che non ne sta vincendo una, perde 3-1 in casa col Crystal Palace il Tottenham, e mentre il Nottingham Forest pareggia 2-2 col City, quindi insomma fa un punto importante. Ma vi sembra giusto che non ci sia un sedile per Juric in questa Premier League? Ti dico che grazie a queste sfavillanti prestazioni ho sentito dire voci di mercato che Igor Tudor siederà sulla panchina del Manchester City l'anno prossimo. No, ma conoscendo il personaggio, che trova sempre una cassa di panchina anche quando non si sa per quale motivo, quindi immagino che andrà a sostituire Guardiola Tudor con questo rolino. Però c'è qualcosa che si muove molto nella parte bassa della classifica, perché ve li ricordate i Wolves che erano condannati assolutamente. Nell'ultimo periodo hanno battuto quasi tutte, nell'ultima giornata ha battuto Liverpool. Intanto. Ma un po' battere i pesi grimani, l'Arsenal, Liverpool, lo United. Hanno fatto una serie di risultati. Hanno battuto l'Aston Villa. Hanno pareggiato con l'Arsenal. Per l'Arsenal com'è e come erano messi loro. E si sono rimessi. Credo che abbiano superato il Pisa. Sì, decisamente. Cioè, non sono più di quel punto lì. Quel pareggio con l'Arsenal. E forse. In più si parla di un Napoli interessato a João Gomes, che è uno dei centrocampisti, appunto, dei Wolves, che mi ricordo è un giocatore eccezionale in quel Flamengo di 2-3 anni fa. Quindi Napoli credo che abbia individuato il brasiliano giusto, vediamo. Hanno ancora tanti punti di distacco, dicevamo il West Ham è l'ultima retrocessa, cioè anzi il Nottingham è la prima salva, ma ha gli stessi punti del West Ham, e ne ha 12 in più del Wolves, dei Wolverhampton, però chi lo sa, sono on fire in questo momento, stranamente si sono risvegliati dopo un inizio stagione veramente terribile. Vediamo, perché c'è ancora qualche partita da giocare, è l'Utopia Gunners, è così. Sì, in realtà ha 7 punti di vantaggio, ma ha una partita in più giocata del Manchester City, quindi con una vittoria andrebbe a 4, una distanza che non ti fa dormire sonni tranquilli, soprattutto se ti chiami Arsenal, ovviamente, però questo è più distaccato il Manchester United con 51 punti, pari all'Aston Villa. La sconfitta del Liverpool porta a giocarsi il posto in Champions League. Col Chelsea, perché è la quinta, sicura, è già sicura di essere inglese, cioè che l'Inghilterra ha già matematicamente raggiunto i punti per avere le 5 squadre in Champions anche l'anno prossimo, e in questo momento Liverpool è sesto con il Bradford dietro a 44, sappiamo, squadra comunque interessante. Bene. Andiamo finalmente ai campionati importanti. Andiamo ai campionati importanti, chiudo solo con il Belgio, che è un po' più importante, perché ha vinto lo Standard Liege, ha vinto contro lo Zulte Waregem. Invece il Mechelen ha perso 3-1 col Ghent. Comunque rimane quinto all'interno della pool scudetto che si giocherà. Potrà partecipare, diciamo, alla vittoria dello scudetto. Ha 18 punti di svantaggio dalla prima, ma diventeranno 9, quindi già lì è tutto più facile. Mentre saggiamente lo Standard è settimo a un punto dalla pool scudetto, ma noi invece stiamo lì. I primi dell'altro girone, questo è i primi dell'altro girone. Bene, a questo punto andiamo. Abbiamo anche un po' di Serie B che volevamo inserire. È un campionato veramente divertente e ancora molto aperto. Campionato degli italiani, no? Insomma, è andato così. Ed è giusto, perché è un campionato che ti offre ritmo, che ti offre la possibilità di vedere tanti bei giocatori. C'è questo Catanzaro che continua a rullare sotto 2-0 contro l'Empoli. Il primo gol dopo tipo 10 secondi lo segna Nasti, che sembrava essere un super bomber delle giovanili, poi invece carriera è andata diversamente, sotto 2-0, ma il Catanzaro di Aquilani, che continua a pensare sia all'allenatore dell'anno in Serie B, che abbiamo parlato spesso, la ribalta 3-2, stavolta il protagonista è Pittarello, che sta facendo una stagione straordinaria, e quindi Catanzaro che trionfa, porta a casa i 3 punti, anche il Frosinone continua in una stagione davvero ottima, vincono anche loro. E non mi ricordo lo scarto finale, però insomma è un'altra 3-0, un'altra bella vittoria casalinga, sempre con Gajemish, l'esterno francese che sta disputando un campionato altissimo. E soprattutto va segnalato, e mi scoccia veramente tanto, questo Pescara che ha deciso di non arrendersi, e anzi da quando è tornato Lorenzo Insigne, credo ne abbia vinte 2 in casa consecutive giocando da Dio. Insigne, la Serie B in questo momento credo sia un po', non voglio essere offensivo, ma volevo dire la sua dimensione, nel senso che può fare la differenza. È l'uomo dove può fare la differenza. Sguazza proprio Insigne in Serie B, e anche io l'ho visto bello pimpante. Oh raga, parliamo segna di campione d'Europa, giocatore. Segna calcio di rigore, esatto. 4-0, rotondissimo sul Bari. E la sorpresa però viene sempre dalla parte bassa, perché è lo Spezia che batte 4-2 il Monza. Monza che ha un espulso, insomma, con un'espulsione, lo Spezia che era appunto nelle parti basse insieme al Pescara. Oggi Mingo mi fa degli assist a porta vuota. Nello Spezia si segnala quello che ha, perlomeno ai miei occhi e agli occhi anche di tanti, può essere un centrocampista molto importante, parlo a livello della nazionale, ok? Perché Cristian Comotto continua a crescere in maniera clamorosa, è un centrocampista più divino. Dinamismo, 17enne che non si è ancora strutturato fisicamente in modo robusto, che però non gliela togli, cioè però non vince un contrasto contro di lui, c'ha tutto, c'ha geometrie, c'ha la visione di gioco periferica, e anche lui credo che sia prodotto Milan, se non mi sbaglio, ed è uno di quei giovani fortissimi che i nostri campionati ti continuano a esprimere, Serie A, Serie B o Serie C che sia. Quindi volevo solo segnalare la continua crescita di questo giocatore davvero fantastico. Ma è rimasto Donadoni? Allo Spezia? Era ancora Donadoni allo Spezia? Non mi ricordo, era Donadoni fino a qualche partita fa. Donadoni anche quando c'è non è che si nota molto. Esatto, molto ancora discreto, ancora lui. Ancora lui era sulla graticola però. Vittoria a Monza pesante, il Monza era primo. Era primo, riapre completamente le possibilità di promozione diretta, ad esempio per il Frosinone e anche per il Palermo, allenato da Inzaghi che conosce bene la materia. In questo momento 63 punti il Venezia, che sta facendo... Ha vinto anche ieri. Un supercampionato, 60 il Monza, 58 il Frosinone che batte 3-0 la Sampdoria e il Palermo che credo vinca 1-0 a Carrara in trasferta. Carrara che stava facendo un ottimo campionato, un'ottima striscia, sì. E una striscia positiva in particolare in casa, insomma, quindi una vittoria pesante lo porta a 57 punti, quindi a 3 punti dal Monza e sono già altre due squadre. È un gran campionato questo qua, è bello proprio. Un po' più lontano il Catanzaro che comunque rimane una grande sorpresa, che era zona playoff, va benissimo, che così. È 49 punti, lotta per la zona playoff, per il primo turno diciamo dei playoff, perché terza e quarta entrano in corso in semifinale diciamo così del playoff, mentre dalla quinta all'ottava in questo momento Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Cesena, però anche il Sud Tirol lì vicino, quindi ancora molto aperta un po' in tutte le posizioni, no? Sia sopra che sotto. La Juve Stabia che dovrebbe essere al suo secondo o terzo anno in zona playoff stabile, cioè la Serie B è bella tanto proprio per questo, ci sono delle realtà magari non gigantesche ma davvero funzionali, davvero con dei bei progetti e davvero dei tanti giovani, per esempio i fratelli Spendi a Empoli e a Cesena segnano tutte e due bene, dovrebbero essere tutte e due in doppia cifra se non mi sbaglio, se non ho letto male. È molto bella la B perché ci sono dei modelli di società diversissimi sì, tra esatto, loro. Esatto. Cioè dai Big Money di Monza a la pianificazione e l'organizzazione con Frosinone, senza soldi. Frosinone sono anni che sta sempre alta Serie B, promosso in Serie A, fa due stagioni in Serie A, poi magari discende, però ti fa capire che allo Stirpe c'è qualcuno che capisce di calcio, se la squadra è sempre... Beh, Castellammare è una piazza che ha lavorato benissimo con pochissimi soldi. Con Candellone, che è un mio feticcio personale. Molto bella la Serie B. Bene, bene, bene, bella la Serie B e un po' più bella anche la Serie C questa settimana. Oh, ce l'abbiamo fatta, raga, si è vinto! Si va a vincere contro il Guidonia Montecelio, seguiti da, se non mi sbaglio, 600-700... dei nostri ragazzi magnifici. La cosa più bella sono state le parole del presidente Vittorio Massi che ha detto testuale: stiamo rimediando ai miei errori. Ha capito tutta la responsabilità e mi dispiace dirlo ma effettivamente era così. Vittorio 1-0 in trasferta con gol di Eusebi al termine di una bella azione di Parigini se non mi sbaglio sull'esterno, assist, porta a ancora Eusebi che comunque volevo dire ai miei compagni di tifo che ed è incredibile che lo debba ricordare quasi a 50 anni che si tifa per lo scudo sulla maglia davanti e non per il nome della maglia dietro. Quindi sono tifosi di Eusebi. Ma se Eusebi fa cagare per 3 mesi e qualcuno prova a dire oh raga sta facendo cagare, non è pensabile che tu critichi il tifoso, devi criticare quello lì che si ricorda di fare interviste solo quando segna. Intanto, e poi a me non interessa, cioè è la Samb. Cioè devi finire sta cazzo, ci siamo persi quest'anno pure per questa cosa qui, troppi personalismi. Allora in questo momento in classifica la Sabretese ha 28 punti, la Torres ha un punto sopra ed è salva. Esatto. Mentre la Sabretese è l'ultima che farebbe il play-out. Ci servono 2-3 vittorie di fila e si può fare, il cambio di girone è abbastanza basso diciamo le qualitative. La Torres è una squadra, tu hai vinto a casa loro hanno vinto a casa tua, ma... È la tua testa, cioè non è niente di imbattibile, niente di insormontabile, come ti devo dire? Raga, bisogna sputare l'anima da qua alla fine. Per fortuna non ci sarà più nessun derby. Per fortuna. Occhio, questa sera uno spigolosissimo Ascoli Ravenna. Ascoli Ravenna? Ravenna è terzo? L'Ascoli è secondo, c'è anche l'Arezzo stasera e quindi che potrebbe confermare la vetta della classifica. Prossima giornata si derby rosso-blu contro il Campobasso. Loro sono troppo simpatici, ma sì, me lo ricordo in 1300 persone a Riviera quando hanno vinto la Serie D 3 stagioni fa, esatto. Non me lo ricordo, grande squadra, bellissima tifoseria. Mi dispiace doverli incontrare proprio adesso. Beh, dobbiamo batterli, mi dispiace, ma dobbiamo batterli. E noi ci buttiamo dentro a un nuovo anno di campionato di Formula 1. Salutiamo il nostro esperto. Brum, brum, brum. Brum. C'è la novità. Abbiamo una power unit con noi. Siete ibridi anche voi, senti, è un po' così adesso il rumore. Con Celeri viene fuori anche il rumore della c'è la turbina, poi c'è il motore elettrico, c'è un sacco di roba. Adesso è così la novità, anche perché quest'anno anche i popcorn mi hanno detto si scalda bene. È l'anno in cui si cambiano i regolamenti, diciamo così, no? E diciamo, come dicono tutti, la Formula 1 entra in una nuova era. Piace. Che non vuol dire niente, è una dichiarazione neutra, è una buona nuova era, non lo so. C'è da dire che in questa nuova era bisogna guidare diversamente. Infatti, ecco, Verstappen, questo è quello che ho capito. È un po' irritato perché lui è abituato, no? Ne abbiamo già parlato, nei weekend lui andava a fare le corse con le macchine normali, insomma. E qui è una situazione dove, ad esempio, non si possono più fare le curve a radicchio, come si dice a casa nostra, perché in curva tu devi rallentare per caricare la power unit elettrica, no? La parte elettrica, le batterie, certo. Insomma, io, perché la prolunga non ci sta dietro. Potevo fare come si chiama quello. Comunque al secondo giro è un casino. Sì. Perché è già avviluppato. Lo fai nelle gare da un giro, oppure fai come dov'è, in Svezia, che c'è l'auto ricarica delle auto in autostrada, si poteva fare una roba del genere. Comunque è tutto un equilibrio, e quindi abbiamo visto anche sorpassi improvvisi, no? Cedimenti, improvvisamente la macchina che si pianta, abbiamo visto anche perché sulle partenze ci sono tecniche diverse rispetto alla gestione di questi nuovi motori. E in effetti dobbiamo dire che la Ferrari ha fatto una bella partenza, meno Leclerc e anche Hamilton, perché forse Hamilton su questa tipologia di auto ha più sintonia rispetto a quelle che sono le sue abitudini, no? Perché Hamilton è uno precisino, tutto. E abbiamo visto che nella gara di ieri ha avuto, diciamo, un buon riscontro. Ma partiamo un po' dalla storia di questo weekend, che ha visto nelle qualifiche subito l'esclusione di Verstappen, che è uscito al primo giro, ha perso il controllo dell'auto, pare vi sia stato un bloccaggio dell'asse posteriore, problema più o meno simile a quello che ha avuto Piastri nel giro di schieramento. Sì, Piastri racconta di aver avuto un picco di 100 kW, che sono 140 cavalli. Sì, improvvisamente un picco di potenza mentre era su un cordolo. Perché è andato troppo piano la curva prima. Ah, si è caricato e quindi anche lì bisogna stare attenti a caricare, no? E quindi ci sono tutte queste modalità. Comunque Verstappen subito fuori, parte dalla ventesima posizione. Ricordiamo che quest'anno sono 22 le macchine, no? Perché c'è anche Cadillac, che insomma non è che si è notata molto. La Cadi. La vecchia Cadi. È andata meglio l'Audi, che di una macchina che correva, perché mi sembra che Hülkenberg, chi è quell'altro? Per motivi di insomma problemi non è partito, oppure si è ritirato subito, però è andata a punti, e quindi diciamo un esordiente con un motore esordiente, perché la scuderia era quella precedente. Era la Sauber, la Sauber. La struttura tecnica c'era già, però il motore è nuovo, cioè il motore Audi è nuovo. Per la prima volta in Formula 1? Sì, per la prima volta in Formula 1 con un motore nuovo, con queste caratteristiche, dove probabilmente è stata anche una scelta strategica, dove più o meno parti alla pari, perché c'è una rivoluzione totale sulle motorizzazioni, per cui ti presenti. Cosa diversa ha fatto la Cadillac, che non ha ancora pronto un motore, ma ha preso un Ferrari che non lo sappiamo, perché lì poi ci sono due piloti che erano già in pensione, tutta una serie di cose. Uno che è perennemente in botta. Sì, quindi. Però diciamo che per quello che riguarda le qualifiche, Ajar, che è la seconda guida della Red Bull, è stato davanti ad Hamilton, quindi sembrava che ne avesse. Ma andando a tirare le somme delle qualifiche, tra le Mercedes e le altre macchine c'erano come minimo 8 decimi di differenza. E per tutti i test non c'era nessun elemento che potesse far presupporre questo tipo di vantaggio. Esatto, quindi già le qualifiche hanno dato, diciamo, un quadro che però si è rivelato poi diverso in gara, dove sì, è vero, ci sono delle differenze, è vero che ci sono anche state due virtual safety car che rallentano, fra virgolette, però il distacco, ad esempio, tra il vincitore tra la Mercedes e la Ferrari era di 15 secondi tra quella chiaramente non di Kimi Antonelli di George Russell se prendiamo quella misura 15 secondi insomma si è contenuta la questione. Un po' un problema invece con il campione del mondo Norris, che è arrivato a fine gara con 51 secondi di differenza. Poi sono stati praticamente quasi tutti doppiati. Sì, è interessante. Fino a Verstappen, mi sembra. L'ultimo a pieni giri arriva sesto da Verstappen, che parte dalla pit. Che è partito indietro. E lì possiamo dire chapeau anche Verstappen, perché ha fatto una buona gara. Comunque buona. Piastri, come abbiamo detto, si è impattaccato al muro nel giro di ricognizione di schieramento. E poi c'è da dire un'ottima partenza con lo spunto di Leclerc, che praticamente dalla sua quarta posizione, adesso non ricordo esattamente, alle qualifiche si è subito proiettato in prima fila. Buona cosa ha fatto anche Hamilton, che è stato terzo, poi non so se è stato anche secondo, adesso non ricordo tutti i rimescolamenti, perché i primi, diciamo, 20 giri prima della forse ancora prima della virtual safety car, che è arrivata al 18esimo, in testa abbiamo visto una grande lotta tra Russell e Leclerc. Russell, che è stato anche tallonato moltissimo, a un certo punto era in un panino tra Leclerc ed Hamilton, e quindi però c'erano questi spunti, no? C'era la Ferrari ti superava in curva, perché pare che abbia maggiori qualità in curva, mentre la Mercedes sui rettilinei sembra che sia un missile. Non sappiamo neanche se Mercedes ha tirato fuori tutte quelle che sono le sue doti. Sappiamo solo che a giugno cambierà il regolamento, perché la misurazione della compressione del motore verrà fatta anche a caldo, perché pare che Mercedes abbia un barbatrucco per avere una maggiore compressione a motore caldo, mentre le misurazioni della compressione del motore vengono fatte a motore freddo. Io voglio sapere chi è quel cretino che ha pensato questa cosa. Ma neanche il giusto di meccanica. Lo possiamo fare, forse faceva il pompista, no? Quelli motori a nafta, per vedere che se sono giù di compressione bisogna aspettare la mattina che è freddo, e allora lo misurano e vedono che è giù di compressione. Ma se è caldo, no, va improvvisamente il motore sembra regolare. Cioè, questo lo dico perché ne ho avuti di diesel spompati, no? Quindi questa era una delle prove. Allora, voglio dire, qui ci sono degli ingegneri, no, che non hanno pensato a questo dettaglio, quindi recuperano. E comunque, visto che qualcuno giustamente dice ma il regolamento mica dice va freddo, io mi sono comportato e mi sono infilato in quella zona grigia, come pare abbia fatto Mercedes. E in effetti Mercedes in rettilineo sembra un missile. Poi c'è il discorso del turbo. Allora, la Ferrari ha un turbo più piccolo, anche questo io non l'ho capito, ma chiedo qua al super esperto di turbo. Di turbo, ma soprattutto di motori ibridi, perché lui ne guida uno e quindi lui recupera l'energia. Ha fatto il test lui per la Formula 1. Perché se è più avvantaggiato con un turbo piccolo rispetto a uno grande in partenza. Allora, torniamo alla power unit. I motori elettrici tutti, anche quelli di utensili come questo aspirapolvere che abbiamo a disposizione in studio, fallo sentire, hanno la coppia a zero giri. Cioè, come un tasto on off, danno tutta l'erogazione a loro disposizione senza un arco di sviluppo. Cioè, a un picco praticamente. Partono al picco. È una linea piatta che si stabilisce al massimo che può dare quel motore là. I motori termici invece hanno una curva di coppia, cioè l'erogazione di coppia e potenza ha una variazione ad arco in base al numero di giri a cui si sviluppa. Il turbo aumenta aumenta moltissimo l'erogazione di coppia e potenza dal momento in cui entra in coppia. Sarà mica 3000 giri come la mia 1 turbo diesel. Bravissimo, è il fenomeno quello del turbo lag. Più grande è il turbo, più tempo ci mette a prendere e a liberare il surplus di potenza che offre. Più piccolo è il turbo, meno turbo lag hai e meno picco hai. Quindi in questo caso, a chi ci sta ascoltando, attenzione perché neanche Sky Sport mi spiega questi dettagli. Cioè, io voglio dire, neanche Sky Sport Formula 1. Ho quasi capito anch'io. Quindi, se ho capito bene, avendolo più piccolo è più veloce in partenza, avendolo più grande quell'altro è più veloce come velocità di massima. Chi ce l'ha in piccolo? Così. No, esatto. Chi ce l'ha piccolo, chi ce l'ha rumoroso. Esatto. Cioè, così, è un po' così, no? Quindi, vabbè, mi piace perché noi oltretutto spieghiamo, poi dopo mi spieghi un'altra due cose. Adesso, allora, c'è da dire, strategia Ferrari, come al solito, siamo lì, insomma, non è che una grande, cioè praticamente si presenta una virtual safety car e le Mercedes entrano entrambe a cambiare le gomme, Ferrari rimane fuori. Sappiamo che in questi durante una virtual safety car cambiare le gomme probabilmente non avrebbe cambiato l'ordine della gara in quel momento. Sì, chiaro, la Ferrari mantiene il vantaggio, questi perdono 7 secondi, però sappiamo che hanno quel turbo che abbiamo detto prima e che in rettilineo hanno un gran vantaggio e quindi poteva essere strategicamente una buona opzione. C'è stata una seconda virtual safety car dove la Ferrari avrebbe potuto approfittarne, ma Bottas aveva deciso di abbandonare la macchina proprio all'imbocco della pit lane e quindi quando è entrato la virtual safety car è stata chiusa anche la pit lane e quindi non hanno potuto, diciamo, usufruire di questo vantaggio. Quindi a strategia Ferrari si conferma che è ancora nella modalità Montezemolo. Sfortunata. Diciamo anche sfortunata, però dovevano approfittare, secondo me. Non si poteva. Della prima. E quindi. Poi Kimi Antonelli, che nelle ultime prove libere, le terze, che sono praticamente poco prima delle qualifiche, sbraga la macchina. Fa un bel busso. I meccanici lavorano come dei matti. E si viene dato comunque che non ce la facciano perché loro stanno lavorando ancora durante la Q1 che dura 18 minuti quest'anno, mi sembra. Poi c'è un incidente, quindi si ferma il tempo. Cioè, Kimi Antonelli a 3 minuti, 4 minuti dal termine della Q1 entra in pista e si qualifica per secondo, girando subito molto bene. Tenete conto che gli hanno messo insieme la macchina senza così a occhio, nel senso che l'assetto andava forse definito meglio, quindi Kimi Antonelli si trova con una macchina che è come quando vai al carrozzaio, mi tiri su questa botta perché sennò ci prende contro la gomma. Ecco, lui si è trovato una cosa e ha fatto il secondo tempo, quindi ed è alla fine poi della Q3 ha fatto confermato se il 1-2 Mercedes. Questo per raccontare che Kimi Antonelli forse poteva azzardarsi un po' di più, perché è anche vero che ha fatto una pessima partenza al Gran Premio, ma l'ha fatta anche Russell e quindi diciamo sul finale della gara forse Kimi Antonelli avrebbe potuto approfittare, anche perché qui se non approfitti adesso di vincere un mondiale, poi è vero che probabilmente sono ordini di scuderia, ragazzi fermi così, del resto a quelli della Mercedes si vedevano tutti i denti, no? Mentre ridevano della potenza della loro macchina. E poi c'è da parlare di Lindblad, che comunque ha fatto un esordio questo. Sì, esordiente, cioè, esordio e punti, perché lui è arrivato a punti anche se doppiato in questa gara, quindi molto giovane, no? Molto giovane, penso sì, adesso ce ne sono stati 18 anni? 18 fatti, c'è chi ha debuttato 17 anche in Formula 1, quindi Ajar l'abbiamo già detto, ma anche Bormann che va a punti con l'Audi, con la unica Audi che era rimasta in pista. E quindi niente, questo più o meno il diciamo riassunto. Ci volevo chiedere una cosa a Fios riguardo all'overtake e al boost. Allora, il boost è perché l'overtake la modalità sorpasso. Sì. Però prima c'era un DRS, prima era è cambiato qualcosa qua. Sì, sono legati più all'erogazione di potenza che all'aerodinamica. Sì. Prima il DRS nasce come ala mobile che scarica, toglie carico aerodinamico per rendere l'aerodinamica più da dritto e meno da curva rispetto al setup di partenza, per sfruttare la scia di chi ti tira da davanti. E overtake è la modalità sorpasso affidata alla power unit, quindi è un picco di potenza legato proprio all'erogazione della parte elettrica della power sì. unit che si somma a quella del motore. E poi il boost. Quindi dice... dovrebbero esserci più sorpassi in questo. Ci sono stati un monte di sorpassi. Sì, però abbiamo visto queste cose, uno che si pianta. Sì, sorpassi non diciamo virtuosi, ma Mario Kart. Allora, qualcuno, qualcuno l'ha citato, l'ha Leclerc credo, no? Questa, il fungo di Mario Kart. Io non so adesso chi è che pensa a questa nuova Formula 1, ma fondamentalmente è pensata anche per dare più spettacolo, ma lo spettacolo è indipendente dai piloti alla fine della fiera, o perlomeno è dipendente, ma dei piloti che si devono così adeguare a questa nuova modalità di guida. Cioè, adesso era il primo Gran Premio, quindi iniziano a prendere. Attenzione, voglio dire una cosa: se una scuderia di Formula 1 dice vado a prendere il migliore pilota per questa Formula 1, oggi non c'è. Potrebbe essere un giocatore di e-games, un ragazzino che gioca ai videogiochi. Dopo quattro anni di palestra, di preparazione atletica. Un po' di preparazione atletica. Ecco, cioè, questo è la. Non piace a tutti, perché all'appassionato del motore, quello che ha le unghie nere, questo tipo di prestazioni, di motori, di modalità di correre non piace assolutamente. Comunque, vedremo. Prossimo circuito è la Cina, dove c'è un rettilineo da un chilometro. Sì. E lì quindi potrebbe essere un vantaggio grosso per la Mercedes. Ma non si capisce. Cioè, potrebbe essere. A questo punto mi viene questa domanda. Allora, l'Italia aspetta un pilota campione del mondo dal 1953, sono andato a guardare l'albo d'oro, perché non ci sono stati più piloti che hanno neanche... Forse Alboreto è quello che vicinissimo, quello che ci è andato più vicino che posso ricordare è Alboreto. Non ha avuto, pur essendo anche uno sport molto seguito, è vero che si segue più la macchina, in particolare in Italia, dove c'è la Ferrari che spesso o a volte vince. Beh, viene percepita come la nazionale dei motori italiani. Esatto, è la macchina, no? che conta, però sta di fatto che non ci sono nell'Albo d'Oro. Abbiamo vinto 3 campionati del mondo in tutto. Cioè, nel senso, 2 li ha vinti Ascari, 1 Nino Farina del 1950, stiamo parlando di quegli anni lì. Quando c'erano le unghie nere. Esatto, veramente nere. Era una Formula 1 leggermente diversa da quella di adesso. Ci abbiamo Kimi Antonelli. Appunto per quello che dicevo prima, Kimi deve approfittare di questa situazione e dare, perché secondo me può dare del filo da torcere anche al, diciamo, a Russell. Sì, non è la seconda guida, sono in questo momento partono. Sono abbastanza pari. Due però prime guida. Non lo so, sicuramente Kimi Antonelli è il cocco della scuderia, e questo lo si vede da come lo abbracciano, eccetera. Ma perché deve essere anche un bravo ragazzo? Ma sì, ma a parte che di Bologna. No, ma non perché è di Bologna, dico da vedere. Mi sembra un bravo cinno. Chapeau. Mi sembra anche non è un gasato, è uno ha finito le scuole qua a Bologna, ha compagni di scuola, cioè gente normale, no? Sì, abbiamo, è un normalone, abbiamo visto anche a Imola che ha chiamato tutta la sua classe all'autodromo. però io punto su di lui finalmente. Non è un pilota Ferrari, è Mercedes, ma del resto forse ha più opportunità in questa situazione che essere un pilota Ferrari, sapendo come bene o male a volte succede ormai da troppo tempo in Ferrari. Io voglio segnalare un altro problema, perché col fatto che oggi abbiamo delle ali mobili anche nell'ala anteriore, pare che la sostituzione dell'ala anteriore, che a volte si danneggia, è uno dei punti più, no? Rispetto al passato, sia un po' più complessa, perché ci sono tutti i meccanismi, i leverismi, e quindi richieda 20-30 secondi per la sostituzione. Quindi il minimo contatto alla partenza diventa un moltiplicatore di complicazioni. Un altro talloncino da Achille, ma giusto così da segnalare. Vabbè, insomma, abbiamo prima gara, quindi abbiamo visto le prime cose. Può essere anche che insomma i piloti capiscano meglio le macchine col passare dei tempi, certo, e possa aumentare lo spettacolo. Che quello è l'obiettivo. Ci sarà chi con queste nuove modalità si troverà meglio e riuscirà a sfruttare al meglio la situazione. E quindi con questo, accendendo, salutiamo la unit, concludiamo la parte devastante, la power unit dedicata alla Formula 1. Velocissimo, del resto abbiamo vinto anche contro l'Inghilterra rugby, e quindi vinceremo prima o poi un campionato del mondo di Formula 1, statisticamente ci sta. È un po' così, siamo nel finale della trasmissione. Strano per una trasmissione che si occupa soprattutto di rugby e San Benedettese avere parlato poco di rugby, molto più di San Benedettese ad esempio delle due, però è stata così. Vittoria con l'Inghilterra, la prima vittoria dopo 33 mi sembra sfide, seconda vittoria nel sei nazioni di quest'anno, vittoria contro la Scozia che è prima in classifica, quindi la prima vittoria con la Scozia che è prima in classifica. Ora si va a giocare in Galles, che non è mai una cosa semplice. Fanalino di coda, però va bene, però ora vi salutiamo, ciao.